per la partita, sta mangiando una cosa. Beh, io sto facendo la pezza da bollire e niente. Poi, ma come ti sembra, come ti sembra? Tutto bene? Tutto. E cosa non ne parla? Ma ha detto che adesso mangiava sicuri, cioè, e boh. Non ci fanno quei lavori questo pomeriggio. I lavori si iniziano stamattina, presto. Così c'è tutta la giornata. Se ti capita un problema, devi lavorare lungo. Infatti. Infatti è proprio così. Perché la mattina sai che ci vuole un po' il tempo lì. Però se ti capita un contrattempo che riesci a risolvere alla grande. Poi possono capitare tanti problemi, ma insomma appunto che non taglia una cosa e ci vuole tempo e quindi bisogna farlo la mattina presto il lavoro. A me Luca non mi ha detto niente, se mi avrebbe detto portami un po' quel punto, un trappo, una cosa gli avrei portato, non è che sarebbe stato, cioè io l'ho portato per quello lì e boh. Se no non era destinato a bucare il vino, era destinato a bucare un muro, tutto lì. No, infatti, io neanche sapevo niente, io sono passato da Franco per vedere se c'era sul tetto, ho visto che non c'era, allora sono passato lì da Luca, ho visto che stava mangiando, veramente gli ho telefonato anche a Franco, mi ha detto che era da lì. Non posso attaccare il 9.40 perché non ci ho alimentato le belle ventole. milioni di dollari. Io pensavo che l'avesse portato, perché ce l'avevo io in macchina, ieri è passato e gli ho detto che avevo la bambina ammalata, ho detto qualsiasi, l'ho preso dal cofano, infatti è suonato a casa, gli ho aperto la macchina, l'ha preso dal cofano, poi la stessa si è dimenticato. Nulla, nulla, ma non c'è passato, non c'è passato, infatti non l'ho acceso il 940, perché ho detto, senza la ventola, non c'era l'alimentatore per la ventola, ho detto puoi scaldare, è un casino, anche se lo tengo d'eccezione, ma c'è la ventola, già faccio qualche passaggio, solo che no, non posso attaccarlo, ho provato a attaccare l'alimentatore normale, ma è troppo veloce, ci vuole con l'alimentatore di... Tu risolto, tutto a posto? Sì, quasi. No, adesso domani dai, me ne occupo io, ovviamente ti faccio un circuitino piccolo, ti metto un interruttorino con un LED e due spinettine, così te lo puoi accendere e spegnere quando vuoi tu. Quello è il lavoro fatto bene. Già sono in ferie, probabilmente ci sentiamo anche domani mattina. Capito? Ci sentiamo di metti anche domani mattina e ci vediamo a prendere il caffè. Ciao, ciao Mario, ben ascoltato anche a te, scusa se non ti ho salutato prima. Buon info. quando critico vuol dire che ho il senso della critica. Ciao. Fatto bene. fatto, però più di quello, c'è ancora qualche millimetro, ma già va bene così. Non flette quel palo, non è telescopico, visto? Dice un tubo di innocenti di un gatto, no, non ce la fa a flettere. Secondo me tiri nei tratti di l'estate. caro già, sti figli costa quasi di quanto una manza, ma 60 euro l'antenna di macchina, roba dell'altro mondo. Ma una 50 qui va bene, tanto una 50 qui va bene, non è che c'è un'antenna da buttare. Comunque 40, fatti i conti, ti viene 45 euro col viaggio. Sì, ma io sono veramente d'accordo con te, già, parla sempre un'antenna di macchina, è sempre un pezzo di un ossido d'acciaio con una carica di rame, non è niente di eccezionale. Perché dalla una e mezza fino alle 5 era mi buttato di loretto, ma si fa anche questo. quello. Tanto? Dimmi. Ma era il telefono, non ce l'ha ancora franco? No, ma il meccanico praticamente, lo tiene franco, lo tiene lui. Mia di Giardi e di Antonio. Claudio è andato a caricare e Roberto lo stesso. Riprendi Maricu. Oh, iaia. A me il segnale è più forte. Cosa Gattipio. Come la stanno le Gattipi? Da me sì, poi non lo so dagli altri. Perché le Gattipi o da te? A me sì, è un pubblico che ha venuto quella della lancetta, mi sembra le Gattipi. Non c'è un altro. Anche a me tutti i segnali che arrivano sono negativi del mobico. Luigi, guarda a te, pippocchi, tutti negativi o positivi, guarda. Hola. No, niente, adesso il risultato positivo è negativo, guarda a te per male fuori. Mario, da te. Ma se tu ci abituato a tenere tutti i protettori tra mano, il microfono. Va bene, non è che ho detto quello bene, mi sembra che sia alto anche quello. Piantato, non si muove mai nulla. ragazzi, a picchi ragazzi di Dame, eh. Ciao, no, sono da 7. Sì, anche da me, lui, era una prerogativa, non era parecchio, sicuramente. Sono tutti negativi, non vanno mai a conoscere. Invece lei legge è positivo. Ce lo vogliamo fare, lo fanno. Io in Canaria ce l'ho, voi, per voi. Chiamata, ti quanto può fare, ti arrangi tu con lei, ti va a dare anche in Andi. Scusa, Non lo so io dove c'è la testa, Quello lì è come che fosse telescopico, perché c'è il bullone pensante, ma è la stessa cosa. Quello lì, tu ne metti gli bulloni e scende. Quando lo risali, basta che li senti uno, poi l'altro ti viene più facile, capito? Se ne pone il bullone è arrivato. Dov'è il problema? Fate le cose, già all'inizio che fai le cose più difficili di quello che sono. Quello lì è telescopico, tu ne metti gli bullone. Va bene, comunque il tirante come va più su, perché il palo che c'è sotto, diciamo la base, quello lì è troppo grosso, non ce la fa piegarlo, ma se lo metterà più su il tirante, la dritta va tranquillamente. Vegetativo, tutto quanto, ci vuole una manutenzione nelle barche, una barca costa un minimo di 10 milioni. di Luis. Allora io ci sono. Se è una giornata, se ti metti l'impegno e se usa la macchinetta, te la levi fuori dalle spalle. Anche un giorno mi ha giurato. Io quando lavoravo a Porto d'Ottollo, durante il giorno facevo le installazioni, facevo l'antenna, l'instrumentazione. Poi rimanevo lì, quando finivo di lavorare, no? Per conto mio, con la macchinetta al cofano, andavo ad uscire dalle barche, a pulire dove sbarche, no? Lavare, lucidare le parti di cromatte. Vediamo la situazione com'è. E infatti io sto pensando prima di lucidarmi le parti cromatte e poi lucidarmi la barca. No, non mi va, lucidati prima la barca e poi le parti cromatte, perché dopo ti scritto un giorno dalla porta d'arrivo e devo ancora molto niente. Prima lucida la vetrolina, la parte verniciata. Dopo che l'hai lucidata gli passi lo straccio col pulice e la pulisci tutta quanta bene. Dopo, piano piano ti fai le parti cromatte. Allora faccio pulire la faccio pulire che cazzo non prendi del male allora che faccio ma è già vuoto insomma che non li vuole ma nel futuro perché se dentro ti ho messo un mio la Ripeto, la cava. Ma io sono sempre qua, c'è di mezzo la Valentina, cos'è che c'è tu? Che cos'è lui da Claudio? Dimmi. Penso che con due viaggi, a me con due viaggi mi avevano portato via tutto. Ci mettiamo d'accordo, non c'è problema. Arriviamo. Ma ci vuole pure. tanto. Ma facciamo tutto noi, chiudiamo noi le tracce, cioè facciamo le rifiniture noi. Le tracce le chiudo io, tu fai il fatto io le chiudo. E dopo gli ho passato il raso, il gel, e poi in bianco. Faccio tutto io. Sto già preso 3 mesi di serie. Ah, cos'è il raso, gel? Devi dare, mettere l'intoplex. No, le chiudo di camicciati io. Pazzo. Devo fare le fognature, i vari colori, quelli dei gessi. Ah, c'è. Insomma, cosa ne facciamo sul tetto le antenne? Vabbè, anche la fattura non la metto dentro il giorno. E quella è un problema, poi la tetto subito. Così siamo a posto. L'impianto l'antenna, l'impianto bisogna fare anche l'impianto, vabbè, nelle tratte ci va anche il per l'impianto dell'antifurto. Roberto, qual è la zona? Sì, qua siamo in 20 con questa malattia. E tu no, non ci sei mai arrivato. 9-9. Compro tutto. Sto guardando se c'è la novità. sta facendo. Si mette a ridere, altro che. Noi lo siamo in dovere qua. Se tanto starai mettendo un po' a posto la tassazione. Chiamala, ma salta, eh. Buongiorno, ma È un maschio, una femmina. No, è una sapere che c'è vicino a casa, amico, dove c'è il capo? Oh, correggete, c'è sbagliato, Già, ma la domanda. Ah, è vero che Mario fa 10 secondi di stand-by. Allora, meglio la radio, me. Sono più piccoli problemi, è più piccolo tutto. Davvero. Comunque, ciao Franco, ben entrato, ancora non ti avevo salutato perché purtroppo eri in panchina. Non fa niente, non c'è problema. Navigando per il computer e quindi non lo accesso. Ah, c'è poco traffico. Cioè ce n'è, ma c'è poco traffico rispetto agli altri giorni. Pensavo che ce l'avevi acceso. Yeah. ma che dobbiamo dire qui a quest'ora? Oh. che ora sono? Minuti. No, c'è un televisore, c'è un